like mine, like yours, like anyone's. Fate that crossed just for a moment, too measured to remain a stranger. Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca microfono, e lo ricordo, stasera ospiti gli Hypnotetical. Con voi e con loro ascolteremo 6 brani del CD Dead World, come il primo che è andato in onda. Titolo? Fear of a Suffocated Wrath, ed è il singolo del nostro album, nonché il brano del nostro primo video appena pubblicato, e vogliamo cogliere l'occasione per salutare e ringraziare Michele Piazza, regista del nostro video, e Francesca Vignaga, detta Daphne, attrice protagonista del nostro video. Grandissimi. La vostra esperienza durante le incisioni per questo disco, al tempo in cui la band lo ha realizzato, e quali linee guida che avete seguito? Noi ci siamo fatti guidare un po' dall'istinto, un po' dalla tecnica. E questo è un disco registrato a Yates Studio di Rosà. E le linee guida sono state grandi prove in studio. Nelle sala prove, sperimentazioni varie anche in fase di registrazione. Il disco inizialmente doveva contenere anche una cover di Because the Night di Patti Smith, successivamente si è deciso di riprendere due brani dal promo 2006. La potete ovviamente trovare su YouTube, scrivete Because the Night Hypnotetical, comunque potete trovarla in streaming su internet. È rimasto un brano inedito. Esatto. La prossima canzone per i nostri ascoltatori: The Eternal Nothingness of Sin, canzone di apertura del nostro album. Siamo sempre con gli Hypnotetica, il capitolo recensioni musicali, quali le più importanti, che cosa dicono del vostro album, in particolar modo cosa i giornalisti hanno apprezzato e segnalato. Sì, il nostro album Dead World ha ricevuto recensioni direi entusiastiche sia in Italia che all'estero. Voglio segnalare una citazione fatta da Michele Martini della rivista Rock Hard e che noi utilizziamo spesso per dare un'idea della nostra musica. La citazione dice: tra gli echi dei Tool più schizofrenici, il decadentismo crepuscolare dei Pain of Salvation e l'aggressività di certi Meshuggah. Beh, non possiamo che ringraziarlo per questo ottimo, complimento. Ottimo. Prossima canzone. Heaven Close at Hand. Torneremo breve per la quarta parte di Rock Legends con gli Hypnotetica. Becoming martyrs, all are not so cold. Is your heaven so